Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Coronavirus, continuiamo a monitorare e ad aggiornarvi sulla situazione. In linea con noi oggi il professor Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di ricerca di statistica medica ed epidemiologia molecolare all'Università Campus Biomedico di Roma. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, anzi grazie a voi di questa occasione. Professor Ciccozzi, questi sono giorni molto importanti per capire l'andamento dell'epidemia. L'OMS ha per l'appunto ribadito che siamo di fronte ad un'epidemia che si può contenere, non di una pandemia, ma sulla base dei dati oggi a disposizione, quali sono le previsioni possibili? Beh, diciamo che sono ottime, si pensa che si stia contenendo questi focolai epidemici, perché parliamo poi di due focolai epidemici importanti nel nord Italia, quindi è un'epidemia che le misure stanno iniziando a funzionare. Aspettiamo la prossima settimana, abbiamo dato un'altra settimana di quarantena fiduciaria ad alcune persone che fanno parte delle zone rosse, vediamo, io sono molto fiducioso in questo e ho molta fiducia che non diventi una pandemia così come si ventila come ipotesi. E è un virus che diciamo non muta molto, nel senso quello dove lui doveva mutare in una maniera importante ha fatto le sue mutazioni, l'ha reso molto contagioso, questo sì, ma molto meno letale della SARS del 2002 e 2003, il tasso di letalità è 3 volte inferiore. Diciamo che io ritengo sempre che di coronavirus si guarisce, nella maggior parte, nel 97% dei casi si guarisce, la gente deve essere tranquilla, deve fare quello che il Ministero della Salute, quello che Walter Ricciardi tutte le volte come consigliere del Ministro della Salute consiglia di fare, quindi le normali procedure e pratiche igieniche, così come la quarantena, bisogna farla. Professore, torniamo a parlare di mascherine. Per le persone che devono indossarle, un video tutorial pubblicato sul portale dell'OMS per ricordare come indossarle, come toglierle, come smaltirle in modo corretto. La cosa importante che io ho trovato, anzi ne ho trovate due di cose importanti. Una, che viene ribadito un uso scriteriato tra virgolette della mascherina, cioè la mascherina va messa soltanto se si hanno sintomi che possono far pensare ad essere infetto, allora si mette questa mascherina per non infettare gli altri, oppure si mette la mascherina quando si è in presenza nella stessa stanza di una persona che si sa che ha il coronavirus perché è infetta e quindi è in isolamento. Queste sono le due cose dove si mette la mascherina. Andare in mascherina con la mascherina nella metro, andare per strada, non ha veramente senso, anzi si fa un danno perché si toglie la mascherina a chi ne ha bisogno, che sono per esempio i medici che lavorano in prima linea negli ospedali. Il secondo dato è come indossare e svestire la mascherina, cioè nell'indossare la mascherina è semplice perché hanno degli elastici, si mettono questi elastici alle orecchie, c'è un ferretto che va aggiustato sul naso e qui finisce. Nulla che possa dire mi posso infettare se, perché ancora non l'abbiamo solo messa. Nel momento in cui si toglie è importante toglierla bene. Innanzitutto non mettere la mano davanti alla mascherina, perché se la mascherina è leggermente umida, bene, quelle goccioline di flu, quello starnuto, quel colpo di tosse che la persona ha fatto e che rimane nella mascherina, dove può essere che c'è una piccola carica virale, bene, dopo la prendiamo nelle dita della mano e se andiamo nella congiuntiva degli occhi o mettiamo un dito in bocca ci prendiamo il coronavirus. Quindi assolutamente non toccarla di fronte, come dice la dottoressa che lo presenta, e smaltirla in appositi contenitori chiusi, assolutamente chiusi, nel modo in cui si vede dal video. Guardi, è una cosa meravigliosa questo video, io lo farei vedere anche a... Noi mettiamo naturalmente il link sulla pagina di Obiettivo Salute. Professor Ciccozzi, grazie per essere stato con noi, a presto, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, mentre vi aspetto in diretta Facebook per parlare della salute del nostro cuore, anche in tempi di coronavirus. Buona giornata.